Voci in scena di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola per un nuovo appuntamento con le nostre voci in scena, gli incontri con i grandi protagonisti dello spettacolo. La voce in scena di oggi è quella di un cantautore italiano d'altri tempi. Nato a Milano nel 1965, inizia la sua carriera musicale fondando i Casino Royale nel 1987. Con il gruppo pubblica 7 album tra l'88 e il 97. Nel 97 la band viene scelta dagli U2 per l'apertura dei concerti in Italia. Nel 1999 lascia i Casino Royale e si dedica al suo side project, i Blue Beaters, live band di musicisti appassionati di rocksteady giamaicano e soul americano. Il loro primo album ufficiale esce nel 2000. Ne usciranno altri 4 con la nostra voce in scena come leader. Nel 2002 esce il suo primo album da solista GP Gran Premio, da cui sono stati estratti 2 singoli, Musica di Musica e Viaggio Solo. Il secondo album da solista nel 2014, Old Boy. In quell'anno partecipa alla 64esima edizione del Festival di Sanremo con i brani Un bacio crudele e Così lontano, piazzandosi all'11° posto della classifica finale. Nel 2016 pubblica un album di cover, Groovin'. La nostra voce in scena di oggi è Giuliano Palma. Fondamentalmente il concetto è grooving, io continuo a groovare perché è il mio modo di fare la musica e di stare al mondo. Il grooving è una parola che in italiano non manco esiste, perché se la cerchi sul vocabolario, non so se hai provato, faccio gesti strambi, ma mi pare che significhi to groove, filettare, non so, una roba proprio tecnico, da robe da catena di montaggio, non so, ma invece è quello che poi la parola come la usiamo e come la usano gli anglosassoni. In gergo può essere come dire lo scialo, cioè il presobenismo, troppo slang. Comunque il bello è il groove, nello specifico la pulsione ritmica che uno segue quando sente la musica, eccetera, o balla. E invece il grooving è come dire l'esserne posseduto, per farla breve, e quindi nel fruirne. Hai scelto delle cover, ma veramente totalmente una diversa dall'altra. Sì. Qual è stato la ratio? Qual è stata la ratio? La ratio, che bella parola. Allora, praticamente sì, cioè, ma il mio filo, cioè ogni volta che faccio questa domanda poi mi si ripropone, però è vero che nei dischi precedenti erano più legati al mondo giamaicano, alla musica giamaicana, anche qua c'è, perché queste sono forse perché era un momento di scossa emotiva, cioè sono andato nell'infanzia, perché appunto ci sono Gli occhi verdi dell'amore, Eternità. Io Eternità in realtà era da un po' di dischi che volevo fare, però essendo un po', qualcuno rimane sempre indietro, però fa Eternità, io la riattacco a Come le viole, che di qualche anno fa, cioè sono canzoni che io ho ascoltato quando ero un ragazzino, perché mamma e papà, cioè due erano appassionati di musica, operai, ma cantavano la mattina e la sera, napoletani, quindi ho ascoltato tante, prima le canzoni napoletane, poi quelle italiane della Hit Parade, eccetera, quindi i successi, quelli melodici. Però una cosa che ho capito, e infatti il grooving va a parlare anche su questo, che per me, indipendentemente dai generi, no? Quindi io scelgo momenti, sono file della memoria, momenti che ricordano passaggi nella vita, ma sono poi alla fine sono tutte delle canzoni. Scusa, perché la parola è questa, alla fine io sono un canzonaro, cioè nel senso figlio del pop, e quindi tutti espressione del pop del momento, da cui si va appunto a che altro dobbiamo citare, Elton John e Kiki D, che è stata un singolo negli anni 70 stupendo. sapere come le hai abbinate, perché hai degli amici solo ma ben accompagnato. Brava, sì. Vabbè, il gioco dei featurings ormai poi tanto è molto di moda, nel senso la discografia attuale, guai a non prevedere degli amici che poi tutti spendono con varie interviste se la chiacchierano, perché poi alla fine Chris Cab è internazionale. Però Chris Cab hai fatto un acchiappone. Sì, ma non l'ho fatto, nel senso, perché io non sono quelli che riescono a mentire spudoratamente e dire sì, perché ci siamo conosciuti negli studi a Miami. Cioè, lo fanno tutti, però. Ma non è vero, mentono tutti. Vi fidate di me, per cortesia, perché sono balle colossali. E a me, io non riesco a dire a questa roba, perché per dare un po', forse sarà perché sono così talmente naif e quindi prendetemi. Ma no, ma menti anche tu, di che eri a fare la roba nello studio lì, hai passato Chris Cap, vi siete fatti una canna insieme, e Wicked, bella ma di che? Cioè, le discografiche ti propongono magari promuovono degli artisti internazionali. È successo così anche con Caro Emerald qualche anno fa, che per me è stato un episodio piacevolissimo. Ma chi cazzo la conosceva? Ma dove la incontro? Cioè, nel senso, sì, magari ad Amsterdam un giorno passeggiando, I'm an Italian singer, I'm a singer too. Cioè, ma de che? E quindi dopo, però, voglio dire, è ovvio che se lo propongono a te vuol dire che tu hai qualcosa in comune con l'artista, altrimenti lo proporrebbero a un altro. E me su questo è una cosa alla fine che mi gratifica molto. Mi ha fatto sentire il pezzo, lui sapevo chi era perché era già stato in radio, e mi fanno senti questo, faccia, perfetto. Cioè, nel senso, e quindi viene a binaccio, cioè mi propongono, e che è la cosa vincente, perché mi piace un sacco. Un bel po' di tempo dopo, cosa ti ha lasciato quell'esperienza di Sanremo? Che ogni partita in cui vado non posso più andare senza dover fare cerimonie, perché mi riconoscono anche in quell'ultimo. Perché ti ha dato più notorietà? Devo difendere una battuta, ma è vero, nel senso che assolutamente sì, è la visibilità che dà. C'è gente che per alcune persone in Italia la musica è Sanremo, no? Parlo di gente, cioè, di generazioni piuttosto che, però tu dopo vai a parlare, io non ce l'ho mai stato, quindi ero comunque uno di, come dire, fra alternativi, cioè una volta alternativo, però in ogni caso, però per me è stata un'esperienza, cioè io volevo tornarci anche quest'anno, cioè non mi hanno preso, maledetti, però c'è sempre una sgomita, i posti sono pochi, appunto, però è bello sentirti dire che comunque lo rifaresti. Sì, perché io poi arrivo appunto da, invece il mio passato erano quelli alternativi, parlo del Casino Reale, eccetera, di quello che ho fatto, e quindi sembrava che io fossi uno, ma in effetti non avevo mai fatto troppe scene, non mi sono mai posto il problema. Quando ci sono stato, ovviamente ero già grande, e ho detto tutto quello che ho non me lo toglierà nessuno. Può succedere solo che arriva dell'altro, e infatti così è stato. Mi sono divertito perché rotto il ghiaccio, io mi sono veramente divertito anche durante l'esibizione, che di solito sei un po' nervosetto, Dio non mi sento, ho anche amici altri, come va, come non va, ma sai che c'è, che cioè, ma facciamolo tutti gli anni, nel senso, cioè io non ce l'ho mai neanche voluto, più o meno non me ne era mai troppo interessato, fregato particolarmente, mi è rimasta un'esperienza pazzesca, in più, ripeto, ti dà un sacco di luce in più, per quello che è un lavoro come il mio, che io poi faccio tantissime serate, eccetera, i promoter vanno a nozze, perché di spendere, cioè tu sei andato a Sanremo, o Gesù Gesù, Sanremo è Sanremo, perché Sanremo è Sanremo, quindi cioè, io spero di tornarci nello stesso modo in cui ci sono andato a quel giro, cioè veramente rilassato a prendermi quello che ti ho appena raccontato, che sono le cose secondo me che vale la, bisogna andare a prendersi, cioè la possibilità di appunto l'orchestra è soprattutto. Stare qui al sapore dell'eternità dopo aver amato te. Io ti guardo mentre dormi accanto a me. Non ti sveglierò, no, no, no, perché tu sorridi. Un bel sogno forse ora c'è dietro le ciglia. Con una domanda che è un po' una provocazione, magari ti faccio anche arrabbiare. Serate va bene, un album di cover va bene, ma gli inediti quando, Giuliano? Magari il prossimo, cioè io dopo Old Boy, ti dico la verità, cioè, un pochettino sono anche rimasto. Io intanto parto con la missione per di essere pigro, ma pigro è poco, di accidioso. Dopo lo sforzo che è stato quello di Old Boy di mettersi in discussione, perché poi fondamentalmente se scrivi devi parlare di te. Le cover, cioè, magari puoi scegliere canzoni che sembrano, cioè che parlino di te, però la scheda era curata, quindi cioè, le balle, la faccia se le giocate altro. Devo dire la verità, siccome forse poi non sono così, sono meno schermato di altri, o meno abituato a parlare di sé, a mettersi in gioco nella scrittura, nel fare canzoni, eccetera. A questo giro mi sono ribuffato, ma perché poi a me in realtà piace un sacco questa cosa del riarrangiare, cioè lo so che può sembrare in realtà lo dico, poi lo tagli tu, un grazie al cazzo per lo sforzo, perché certo scrivere è più e poi è anche più gratificante quando tu infatti fai pieni dischi le robe tue, però io l'ho già anche detto in altre interviste, delle volte poi sarò pazzo perché non, magari altri non lo dicono, piuttosto che scrivere poi della roba che in realtà poi invece non è neanche così bella, spessa, forte, ma per me va meglio una cover che una canzone inutile in più. Ed è tutto per l'appuntamento di oggi con Voci in Scena. Con noi c'era Giuliano Palma. Ancora un saluto da Marta Cagnola.